radio2pod.rai.it. Marinai, profeti e balene. Un programma di Vinicio Capossela a cura di Gerardo Panno. Regia di Andrea Cacciagrano. Le coste di terrori di dentro la balena facevano a me intorno un buio spaventoso. Di Dio lontana il sole si muoveva serena, portandomi abissato al giudizio doloroso. Buonasera a tutti e ben sintonizzati a questa prima puntata di Storie di marinai, profeti e balene. Il mare si richiuse come all'epoca del grande diluvio e io soltanto mi sono salvato per potervelo raccontare. La voce di Ismaele era quella di Daniel Melingo. Quella che vi parla è la mia, sono Vinicio Capossela. Abbiamo iniziato questo viaggio da dentro il grande mostruoso capitale Leviatano che ci ha inghiottiti, in cui siamo finiti. Nella sua tiepida oscurità, a cui è facile abituarsi, non ci sono virtù né conoscenza e nemmeno senso del destino. Bisogna uscirne fuori a fatica e colpi di legno, implorare una misericordia che ci porti alla luce, che non ci dia la pace ma ci restituisca ai flutti, ai perigli, alla lotta, a gridare tra i mostri di essere un nessuno da niente, però assetato di conoscenza e di avventura. C'è un momento in cui l'acqua ti arriva alla gola. Allora, per non annegare, devi costruirti una barca, attrezzare qualcosa per restare a galla, armare una specie di arca, come Noè, e mettere in salvo tutta la specie che vuoi ti sopravviva. Intanto l'acqua intorno è sempre più torbida, chiassosa, volgare, continua a crescere, ma tu devi salvare te stesso e quello che ami. Gli aedi che cantarono la storia, gli esseri fuori misura, le balene, i ciclopi, gli eroi. Ulisse, Odisseo, l'ultimo degli eroi, il più prossimo agli uomini, che non volle diventare né maiale né immortale. Da allora è venuto il tempo in cui le storie accadono e basta. Su di noi resta l'ombra lunga che hanno lasciato nel racconto. Piero Boitani ha scritto un libro che si intitola L'ombra di Ulisse. L'abbiamo in linea questa sera per farci arrivare la sua viva voce tra lo sciabordio delle onde radiofoniche. Per me è una grande emozione perché trovare questo libro è stato come incontrare un vero messaggio nella bottiglia. Professor Boitani, che cos'è per lei l'ombra di Ulisse? Sono tante le ombre di Ulisse che ci arrivano. Ci arriva quella dell'Ulisse di Omero, naturalmente, che rimane nella nostra mente, nella memoria, nel cuore. Ci arriva quella di Dante, che anche quella è determinante a partire dal 300 e poi soprattutto in età moderna, insomma, dagli esploratori in poi. E poi certo rimane quella di Joyce, che è il nostro Ulisse quotidiano, per così dire, urbano, quotidiano, ebreo, dublinese, tutto quello che vogliamo. Poi per me ne rimane anche un'altra, che è 2001 Odissea nello spazio, anche quella è un'ombra fondamentale, insomma. Poi ce ne sono tante altre, ma insomma queste tre o quattro sono quelle che per me personalmente sono state le più importanti, anche le più così personali, insomma, ecco. Ma a prescindere dalle opere, proprio nella sua vita come essere umano, qual è l'ombra di Ulisse che sente, che avverte, insomma? Ma guardi, e questa è una storia abbastanza complicata e credo che non abbiamo il tempo, perché io la racconto, ci ho messo un libro e circa 45 anni a raccontarla, per fare quel libro, che è poi sulle orme di Ulisse, cioè il secondo. Io, arrivato a un certo momento nella mia vita, ho capito che Ulisse era parte della mia storia, forse ero io o io cercavo di essere lui, insomma io continuo a incontrarlo sempre, dovunque io vada, in qualunque parte del mondo, quindi è un'esperienza del tutto, come